Inverno. Inverno. Primavera. Primavera. Estate. Estate. Autunno. Autunno. 练习. Bene. Bene. Sette. Sette. Sede. Sede. Bello. Bello. Fede. Fede. Pepe. Peppe. Vela. Vela. Cena. Cena. Legge. Legge. Legge. Legge. Esca. Esca. Esca. Esca. Affetto. Affetto. Affetti. Affetti. Pesca. Pesca. Pesca. Pesca. Vento. Vento. Venti. Venti. Lei ripete bene le parole. Emma prende il tè. Ada ebbe 7 belle pecore. 谚语. Proverbi. Presto e bene non stanno mai insieme. L'erba del vicino è sempre più verde.